www.radio3pod.rai.it. Sì, buongiorno. Niente, ieri facendo benzina mi sono dimenticata la pompa. Attaccata. Già. Succede. Per questo c'è Zuritel, l'assicurazione diretta del gruppo Zurich che c'è quando ne hai bisogno. 848-833-888 o zuritel.it. Later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Cancelli, che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi. Mentre nella fabbrica di polli le incognite spazio-temporali sono sempre più inconoscibili, Kappa e Drago discettano di colore. Cromoterapia, Drago. Fototerapia, cromoterapia, anzi, fototerapia e cromoterapia abbinate a... Ma cosa fai? Musicoterapia. Cosa fai col violoncello? Cioè, ma... Attento che ti cade, ma poi Kappa, non vorrai mica farmi credere che tu hai fiducia nelle capacità curative di una musica, di un violoncello tenuto così come lo tieni tu, peggio ancora di una luce colorata, ma dai. A me queste cose hanno sempre fatto pensare alla fine della civiltà occidentale, Kappa, lo perché sai? Sei un pessimista. Ma no, ma quando la forza lavoro di una società si riduce ad aprire centri di cromoterapia, vuol proprio dire che il fondo del barile è stato raschiato e buonanotte. Ma non è vero, non è vero, è proprio in cose come questa che sta la grandezza della nostra civiltà. Rendere necessarie le cose più superflue, Drago. Dai, un'arte difficile ma raffinata. Lo sai che io sono raffinato. A me sembrerebbe di essere scemo a stare coricato con degli occhialini di plastica in una stanza tutta colorata di luce gialla che poi cambia a verde mentre sotto c'è la musica di Brian Eno. L'influenza dei colori sulla nostra vita è stata teorizzata tra gli altri dal più saccente, supponente, pedante, arrogante e intelligente autore tedesco, Johann Wolfgang Goethe. No! Goethe, no! Mi spiace, Drago, lo so che soffri di cattiva digestione e che Goethe potrebbe esserti fatale, però infatti... parlando di colori è proprio su Goethe che dobbiamo soffermarci. No, Goethe, quindi... no, sì, ti prego. Dai, su, dai, seduto. Le nozioni di primo di classe. Johann Wolfgang Goethe è autore per eccellenza in lingua tedesca ed è nato a Frankfurt am Main nel 1749. Da giovane, piccolo Goethe soffre di coliche di pancia, ha uno sporco di sangue e deve subire anche un intervento chirurgico al collo e quindi lui pensa di morire presto. Sfortunatamente, Goethe vive fino di 1832, scrivendo immense opere noiose, pompose, odiose, scheiße meine Hose, come Faust, l'Urfaust, il Goetz, il Torquato Tasso e il giovane Werther che muore come Kurt Cobain, pieno di droga e di armi di fuoco. Va bene, ma sui colori che cosa ne sapeva Goethe che scriveva il Torquato Tasso, il Goetz von Berlichingen? Ne sapeva, Drago, ne sapeva. Aveva in mente tutta una teoria che doveva smentire addirittura quella di Newton. Quindi... Addirittura? Un poeta che si mette a far concorrenza allo scienziato degli scienziati, Newton, teoria dei colori di Newton. Ma Goethe aveva una grande considerazione di se stesso. Vabbè, quindi... ma quello non basta, bisogna anche saperne. Infatti tutti sanno che Goethe ha iniziato i suoi esperimenti su luce adoperando in modo sbagliato il prisma, stupido. Per cui tutta la sua teoria parte da errore tecnico. Voi capite che uno così non è che potesse essere genio come tutti dicevano di lui. Ecco, hai visto? Quindi Goethe è sistemato. Vabbè, ma cosa c'entra se ha cominciato col piede sbagliato? Vabbè, sai tu che i grandi salti nel progresso umano si realizzano spesso per caso, per serendipity. E quindi... Infatti di Goethe si ricorda il Werther, non certo la sua teoria dei colori. Ma, che per quel che ne so io ha avuto come unico risultato la pittura alle pareti nella sua casa di Weimar. Ah, sì. Dove c'è la stanza azzurra, la stanza gialla, quella grigia, quella bianca. Bellissimo, no? Ma ci voleva Goethe lo scienziato per dipingere una stanza diversa dall'altra. Allora anche mia madre, che ha fatto la stessa roba, è Goethe. Ma come, tua madre è Goethe? Io provo a chiedergli. Pronto? Pronto, mamma, sono io. Dimmi. Ma senti, ma tu sei Goethe? Sei il famoso scrittore tedesco Goethe? Sì. Ah, bene, grazie. La fabbrica di polli! Polastri, ti vedo un po' paleducci, eh? Tu, Polo, in sbattimento invece sei marrone finto, sembri Valentino lo stilista. Vabbè, senti, tu parli solo per invidia, eh? Ma chi ti invidia? Dai, fino a ieri eri bianco come uno straccio, oggi ti presenti marrone, come fai a non vergognarti tu? Tarek, anche tu tinto di marrone. Ma tu non sei troppo giovane per conciarti così, Tarek. È tutto per sembrare dei polli che vivono all'aria aperta. Ma guardatevi, guardatevi, siete schiavi e vittime della pubblicità. Vabbè, per forza, no? Siamo polli. No, ma che poi il marrone, tra i puristi, ha passato anche un brutto momento, lo sai o no? Ma quali puristi? Quei puristi che volevano che il marrone fosse più... Più? Più... Più! Brown. Marrone. Among purists. Tra i puristi. And you know how many purists there are. E sapete quanti ce ne sono. Brown was having some difficulty. Il marrone ha passato un brutto momento. Some of the purists wanted Brown to be more... Certi puristi volevano che il marrone fosse più... More... Others wanted Brown to be more... Certi altri volevano che il marrone fosse più... Still others wanted Brown to be... Altri ancora volevano che il marrone fosse... To be basically brown. Marrone e basta. Yeah. A lesser color might have fallen apart. Un colore più debole sarebbe finito a pezzi. But brown met the problem beautifully. Ma il marrone se l'è cavata bene. By becoming just about as basic. Diventando elementare. Just about as subtle. E sottile. As you can just about get. Al massimo grado. That's why you hear so many people saying, la gente dice, that's a subtle brown. Quello è un marrone tenue. That's the way it's been ever since. È così che è sempre stato. Even with a light tan. Anche per una leggera abbronzatura. Or sweet dark chocolate. O per il dolce cioccolato scuro. Or deep brown eyes. Per due profondi occhi marroni. Next time you see brown. Al prossimo marrone. Any shade. Qualunque sfumatura. Remember. Ricordate. Subtle. Tenue. Basic. Elementare. Brown. Che poi il marrone non è mai stato nemmeno un colore prestigioso. No. No, il barone rosso non era mica il barone marrone. Non so, le bianche scogliere di Dover non sono le marroni scogliere di Dover. Senti, Pollo. Pensa che successo avrebbe avuto un film intitolato Corvo marrone non avrà il mio scalpo. Sì. E poi scusa, Maschera nera non era mica Maschera marrone, Ma chi è Maschera nera? Un eroe dei fumetti di Max Bunker. Che ha chiuso dopo tre numeri. Cosa c'entra? È famoso, Se Maschera nera è famoso, allora Tex cos'è? Tex. Tex è come Vasco Rossi, un big, no? Non bisogna confondere le due cose. Attento. E Maschera nera è famoso abbastanza per andare all'isola dei famosi degli eroi dei fumetti, dove non andrebbe mai Tex, hai capito? E insieme a chi ci va sull'isola dei famosi dei fumetti? E che ne so, forse le nipotine di Minnie, di cui non so nemmeno il nome. Invece Poldo Sbaffini di Braccio di Ferro, so anche il cognome, però Sbaffini. Forse è troppo famoso. Quello con i baffetti che mangia sempre i panini. Le fidanzate di Dylan Dog, che ne cambia una ogni albo, muoiono quasi tutte, quindi non so. Oppure le gambe dei genitori di Charlie Brown. Ah, quelle sì. Che cosa succederà adesso? Le gambe dei genitori di Charlie Brown parteciperanno davvero all'isola dei famosi degli eroi dei fumetti? E se sì, se la dovranno vedere con Super Chuck o con Chico di Zagor? Per saperlo, non perdetevi domani a mezzanotte su Radio 3 il prossimo colorito allestimento de... La fabbrica di polli produce... Non chiude...